Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. Si era verso la fine di novembre e in quell'epoca venni a conoscere che Assuntina mi tradiva. Il giorno che lo seppi, passai apposta davanti alla sua casa e quand'ella, vedendo che non mi fermavo, mi corse dietro, mi voltai e la scostai con tali insulti precisi e tale violenza che essa si ritirò impaurita. Più tardi ripassai ancora di là. Davanti alla casupola non c'era nessuno. Io, col mio temperino, incisi sul legno di quella porta il disegno di una Troia con la scritta «Addio per sempre». Oramai io ero proprio solo. E che cosa dunque mi lusingava ancora su quest'isola stregata? Risposta: Wilhelm Gerace, che gli altri anni, per solito a quest'epoca dell'autunno, già da un pezzo era ripartito in viaggio, quest'anno invece onorava ancora Procida della sua presenza. Una sera dei primi di dicembre rincasai molto tardi. Da quando Nunz mi aveva dichiarato la sua avversione irrimediabile, rincasavo sempre tardi la sera per non trovarmi a tavola con lei. Per solito andavo a cenare all'osteria verso le 7, ma poi mi attardavo in paese fino alle 10 o più tardi, così che talvolta, rincasando, mi sentivo di nuovo piuttosto affamato e mangiavo volentieri anche le pietanze che mi aveva lasciato la matrigna. Con tale intenzione, tornando a casa quella sera, mi recai in cucina. E qui ebbi una sorpresa. La cenere delle braci era ancora calda, ma i due piccoli tegami di coccio dove Nunz per solito mi lasciava la cena stavano lì presso scoperchiati e vuoti. Era la prima volta che accadeva un fatto simile. Io presi dal cassetto un pezzo di pane e uscii per mangiarlo sullo spiazzo. Era una notte spenta, corsa da un vento umido e piuttosto freddo. Avevo mosso appena qualche passo, allorché le ventate riaccostarono alle mie spalle i battenti della porta finestra illuminata che avevo lasciato aperti. Senza lampade né luna, lo spiazzo era così nero che non se ne vedeva più il limite. Non mi parve davvero invitante e di lì a poco mi decisi a tornare indietro, verso la casa che si levava sul fondo tutta quieta e immersa nel sonno. Fu mentre mi avvicinavo a casa che notai, dietro la gran finestra vetrata dello stanzone, un leggero chiarore rossastro. Specialmente nell'inverno, quel gelido stanzone enorme era lasciato dalla nostra famiglia sempre chiuso e abbandonato. Vidi subito che il chiarore rossastro, da me scorto di fuori, veniva dal camino. Qualcuno, lusingandosi di riscaldare un poco quella specie di caverna che era lo stanzone, aveva acceso qualche pezzo di legno nell'antico cammino fratesco. Al mio entrare, una forma solitaria si mosse su uno dei divani sconquassati presso il camino. E da principio, nel buio, mi parve un cane. Ma si levò. Era un uomo. E girato l'interruttore della luce, lo riconobbi subito. Anche se non avessi riconosciuto i suoi tratti e il suo vestito, lo stesso vestito domenicale che indossava quel giorno sul molo, mi sarebbe bastato a riconoscerlo l'odio subitaneo, acerbo e divorante che provai subito contro di lui. Il lampadario del soffitto, polveroso e fioco, illuminava a malapena quell'angolo dello stanzone. Ma pure in quel misero splendore, immediatamente fu manifesta ai miei occhi, là, come un quadro di preciso risalto, l'accoglienza ospitale, signorile, esultante, che mio padre, in un'improvvisazione inesperta, aveva apparecchiato a colui. Una specie di ingenuo, disordinato festino. Sulla tavola, trasportata presso il divano, c'erano i piatti con i resti della mia cena. Olive, sfogliate dolci, datteri, sigarette, vino, anche una bottiglia già vuota di spumante e un'altra di liquore. A terra, scovato chissà dove nella casa, perfino un tappeto, e sul divano un guanciale e la coperta di lana di mio padre. Tutto ciò, ai miei occhi di selvaggio ferito, assunse l'importanza di uno sfarzo regale. «Dov'è mio padre?» lo apostrofai per prima cosa appena fui nella stanza. Il mio tumultuoso accento aggressivo dovette annunciargli che fra me e lui, già in precedenza, l'ostilità era giurata. Mi adocchiò senza muovere un passo dall'angolo del camino. «E chi è tuo padre?» mi rimandò con pretesa ignoranza in risposta. «Il proprietario di qui. Io sono Arturo Gerace». «Ah, piacere!» egli fece con un'aria di cerimoniosità pigra e contraffatta. «È andato di sopra giusto adesso il proprietario, ma non starà molto a riscendere». «Allora lo aspetto qui», io dichiarai. «Accomodati pure», egli rispose in una mezza smorfia indifferente, come a dire che per lui la mia presenza o quella di una formica faceva lo stesso. Quindi, riallungandosi sul divano, aggiunse: «Però, a proposito, rispegni la luce. Tuo padre si è raccomandato di non accendere. C'è pericolo di essere visti da fuori». Io non mi mossi. Ed egli mi sbirciò. «Beh, che aspetti a smorzare? È pericoloso, ti dico. La polizia!» Poi, abbassando la voce, con un'enfasi ispirata e furfantesca, proferì: «Io sono un evaso!» Dispetto del mio odio, mi lasciai quasi affascinare da questo miraggio di complicità magnifica che mi balenava sorprendente, impreveduto. Nascondere in casa nostra un evaso autentico braccato dalla polizia era un onore e nel tempo stesso una forza contro costui. Tenerlo alla mercé. Tuttavia, nel dubbio, lasciai la luce accesa. Non per altro, ma perché costui non avesse a presumere che io gli credevo sul serio. «Che aspetti a smorzare?» ripeté nuovamente. Alzai le spalle con un'espressione quasi di disgusto. Allora, di dietro i suoi labbri arrogantemente chiusi, scoppiettò, quasi a suo dispetto, una breve risata infantile. «Io sono un evaso, il titolo di un film», disse. «Che ti eri creduto? Io sono un libero cittadino, da stasera in regola con l'autorità. Sono stato sfrattato legalmente dal mio domicilio, quassù alla villa, giusto alle ore 19 di oggi 3 dicembre, se ci tieni a saperlo». Così dicendo, e senza levarsi dalla sua posa indolente, mi allungò uno sguardo pigro e impassibile, ma carico di sottintesa malizia. «Ci sarei stato male, eh?» fece dopo una pausa. «Di la verità. Tu avevi subito bevuto la storia dell'evasione e già godevi all'idea di correre a denunciarmi. Puoi risparmiarti l'incomodo», proseguì imperterrito assestandosi meglio sul divano. «E in quanto alle luci, per me ti assicuro, lampadari accesi o spenti mi fa il medesimo effetto qui la serata. È tuo padre che per motivi prudenziali ha ideato questo trucco di smorzare le lampade. La polizia però non c'entra. Si tratta di questioni vostre private, di famiglia». Qui sbadigliò e accese una sigaretta. «Beh, tanto per informarti», spiegò più chiaro, «tuo padre non ci terrebbe a far sapere a voi altri di casa che io sto qua. Credo che, specialmente, non ci tenga a presentarmi alla signora». Parlava strascicato fra una fumata e l'altra, e ogni volta che ridiceva «tuo padre» ci metteva una nota di ossequio ironico e di ripulsa, quasi scansasse un oggetto misero, fastidioso, e insieme irridesse a quella paternità che io vantavo. «E si capisce», proseguì, lasciando cadere di bocca le parole con un'aria di sultano indiscusso, come si ritenesse il principale gangster del secolo. «Io non sono un tipo per famiglia, sono un pregiudicato pericoloso. Al processo», dichiarò con vanto, «mi avevano dato 2 anni. Già, poi invece hanno dovuto farmi la riduzione, per via che nel frattempo sono intervenuti questi grandi eventi internazionali e di conseguenza l'indulto di Sua Maestà il Re. Non ti congratuli per la fortunata coincidenza? Se non era per la marcia della storia, adesso non sarei qua al vostro palazzo a godermi questa bella serata». A questo punto sul volto gli passò un'impazienza nostalgica e lungamente covata, che lo rese quanto mai elementare, addirittura bambinesco, e disse: «Però, se non era per colpa di tuo padre che sei andata a mischiare della mia sorte, io stanotte potrei dormire già a Roma, vicino alla mia ragazza. Dalle carceri di Viterbo, dove mi trovavo io, a casa mia, al Flaminio, ci si arriva in meno di un'ora di macchina. È stato lui, e vorrebbe anche negarlo, che ha combinato, chissà con che pretesto, il mio trasferimento in questa bella oasi di Procida, tanto abbrigato con le sue conoscenze delle alte sfere». «Ah, così!» A simile discorso io rividi, come una corte di fedeli velati e sfuggenti, la società autorevole, misteriosa e senza nome, che già da bambino avevo immaginata tutta al servizio di mio padre, e ambiziosamente quasi mi compiacqui del prestigio paterno come facevo da bambino. Poi mi rammemorai, con un vero brivido, della famosa antica promessa giurata da mio padre al morto Amalfi di non accompagnarsi mai con nessun altro amico in quest'isola e in questa casa, care per sempre ad un'unica memoria. Avevo ancora negli orecchi le parole di William Gerace: «Se mancassi, sarei traditore e spergiuro». Encontrar una estrella, yo come un sueño, un trocito de esperanza, frágil aparato que palpita en espera de una última caricia. En mis manos, dispuesta a regalárselo a quien quiera. Yo llevo la cabeza en las nubes, intentando de encontrar una estrella. Yo llevo el corazón en mis manos, como un sueño, un trocito de esperanza, frágil aparato que palpita en espera de una última caricia. En espera de una última caricia. Il mio viso dovette tradire l'intimo, subitaneo smarrimento che mi attraversava, e forse fu questa mia espressione disarmata che lì per lì dispose a una certa cortesia l'umore del mio avversario. «Di, maschio, a proposito», soggiunse con un diverso accento e pieno d'intenzione, «come mai ti ritiri così tardi tu la sera? Hai la ragazza?» «No», dichiarai cupo. «Non hai la ragazza?» Egli ribatté con una subita espressione di complicità negli occhi rallegrati. «Ah, perché ne hai due o tre almeno di ragazze. Sai che cosa ho saputo da tuo padre poco fa? Che tu ceni fuori e ti ritiri tardi, perché ogni sera esci a caccia di femmine come mici, che vai pazzo per le donne e tieni già le amanti!» Dette un sospiro grande e smanioso che pareva d'un lupo, e levandosi proclamò, in accento di trionfo e di minaccia, come sfidasse all'ultimo sangue chiunque ardiva a contestare la sua parola, «anche a me piacciono le donne!» E rinforzò, più minaccioso di prima, «mi piacciono le donne e basta!» Quindi si dette a battere lo stanzone avanti e indietro, col suo passo elastico e fiero da fantino, e con un tono di serietà religiosa mi disse «sai chi sono io?» Senza parlare, levai il mento in segno sdegnoso di diniego. Egli allora intinse un dito nel vino del bicchiere e col dito bagnato tracciò sul muro, fra gli antichi disegni e firme dei guaglioni, la figura di una stella. «Sono Stella, Tonino Stella», dichiarò, e alla mia indifferenza non certo nascosta proclamò risentito, gloriosamente, «è uscito il mio nome su tutti i giornali!» Dopodiché mi si fece vicino e, quasi a documentarmi la sua identità, rialzandosi un poco la manica, mi mostrò che aveva sul polso una minuscola stella tatuata. Ma prima ancora di aver adocchiato il tatuaggio della stella, io, casualmente, gli vidi al polso un'altra cosa che addirittura, al notarla, mi fece trasalire. Un orologio, troppo celebre e familiare, perché io non sapessi distinguerlo fra tutti gli orologi d'Europa. Era, senza possibilità di dubbio, il famoso orologio che mio padre aveva ricevuto in dono da Pugnale Algerino, quale pegno sacro della loro amicizia, e da cui per anni non si era mai diviso. Fino a quella mattina stessa ricordavo d'averlo ancora veduto al suo polso, e per un attimo sospettai che Stella lo avesse rubato. Ma immediatamente compresi che la verità era un'altra. Non si trattava di un furto, ma di un dono che mio padre aveva fatto a Stella in questa loro serata di festa, senza nessun riguardo per il suo antico fedele. Così, nello spazio di un giorno, Wilhelm Gerace aveva rinnegato senza scrupoli prima Romeo e poi Marco, i due compagni più fedeli della sua sorte. Doppiamente traditore e spergiuro in onore di questo ingrato. Stella, ne sono quasi certo, dovette accorgersi subito che io riconoscevo l'orologio, ma non mostrò tuttavia né impaccio né rimorso. Anzi, dette uno sguardo su quel cronometro magnifico e quasi in un palese compiacimento di possederlo disse: «Che? Forse ti pare di riconoscerlo, questo orologio? Beh, allora ti informo che è passato in proprietà mia, di diritto». Alzai le spalle e, per mostrare quanto me ne infischiavo, allungai un calcio a una poltrona alla prossima. Egli riaffermò: «Di diritto, già, proprio, dovuto a me da tuo padre. E oltre all'orologio, adesso lui mi deve anche un binocolo da marina, un fucile da pesca e una maschera subacquea. Che dice, tiene già in casa riposti di sopra. In più, domani stesso mi deve un abito completo nuovo, da comperarsi in una primaria sartoria di Napoli, e un paio di scarpe nuove con la suola di para. Poi, secondo l'impegno, mi dovrà un capitale di soldi. Quanti me ne occorrono per aprire un garage a Roma in modo da potermi sposare con la mia ragazza?» «Proposito», mi interpellò, «è poi vero che tuo padre è così ricco? D'altra parte, se io mi interesso alle sue finanze, è per una questione d'affari. Si tratta, già, d'un affare che tuo padre mi propone. Lui mi versa quanto t'ho detto in oggetti e moneta, e io, in scambio, accetto di passare una quindicina di giorni in viaggio insieme a lui. Però lui, la grana, i soldi che ha promesso, voglio dire, intende sborsarmeli solo alla scadenza dei 15 giorni, non prima, perché se li sborsa in anticipo, dice, perde l'unica buona garanzia che io non tagli la corda. E va bene, io lo aspetto sulla parola, ma gli consiglio poi di non barare, per la sua salute». Qui Stella mi guardò minaccioso e severo, come mi prendesse a testimonio e a garante. «È chiaro», concluse in una smorfia di spregio, «che se invece di tornare subito dalla mia ragazza a Roma io me ne vado a contemplare i tramonti assieme a lui, non ci sarò mica andato per la sua bella faccia». Su ciò egli parve sprofondare in una meditazione esigente e corrucciosa, come se quel promesso viaggio cui si preparava fosse già solo all'idea uno strazio per i suoi nervi. Quanto a me, fin dal primo udire da lui quella parola «viaggio», ero rimasto senza colore nel respiro, ammutolito, e quasi non riconoscevo più la mia voce, tanto suonò d'un tratto sperduta e debole nella domanda che, da infime regioni infantili, mi si fece alle labbra. «Andate lontano?» Stella alzò una palpebra. «Lontano che?» fece con un'aria tarda. «Ah, io, dici, con tuo padre? Ah, per il nostro viaggio, dici? Lontana assai, figurarsi. Più o meno si starà qua in giro per il solito circondario». Egli arricciò appena i labbri in un mezzo sorriso annoiato, scettico e irrisorio. «Tuo padre», aggiunse come chi fa una constatazione ormai risaputa, «non è tipo da spostarsi troppo. Si sturberebbe dal crepacuore. Lui è uno che viaggia sempre nelle medesime vicinanze. Sai le antiche mongolfiere frenate? Beh, così è lui». «Tu!» gridai. «Non capisci niente di mio padre!» «Ah, forse tu ne capisci meglio?» «Tu nemmeno te li sogni, i viaggi che ha fatto mio padre!» io gridai. «Lui, tutta la vita sua, è di viaggiare per i paesi esteri più lontani, sempre, tutta la vita sua!» «Ah, sul serio!» osservò. «L'idea mi è nuova. Lui è il sicuro tipo che non si è mai slattato dalle poppe di sua madre, e mai si slatterà. È in fatto di viaggi da quando si è stanato là dai suoi paesi barbari e si è ritrovato la culla in questo bel vulcano. Sarà molto che io sappia se è arrivato fino a Benevento o a Roma Viterbo». Qua, per la prima volta parlando di mio padre, Stella ebbe un curioso riso, quasi di irreprimibile, amica e malcelata indulgenza. «Forse», ripigliò, «avrà paura che questa sacra isola del tesoro, se lui la perde di vista, cali a mare. Appena se ne allontana 3 o 4 stazioni di troppo, incomincia a smaniare, come un orfanello, e a ricordargliela fa una faccia, neppure geloso, come di una donna, tanto che di soprannome viene chiamato Procida». Con un'aria annoiata, si alzò stirando le braccia. Poi si ributtò a sedere. Ma all'improvviso uscì in una risata stranamente seria, quasi drammatica, ed esclamò: «Tuo padre è una parodia!» Stringendo i pugni, m'avanzai verso Stella con queste parole: «Adesso ti sputi in faccia!» Allora un'ombra dura, stranamente obliqua, calò sul viso di Stella. A sua volta egli si mosse verso di me e disse, caricando sulle sillabe: «A chi sputi in faccia?» In risposta io, fuori di me dal furore, già ero sull'atto di scagliarmi contro di lui, ma in quel momento stesso un noto passo affrettato risuonava nel corridoio e fui afferrato a un braccio da mio padre, sopraggiunto dalla soglia alle mie spalle. Egli aveva giusto sorpreso le ultime parole di Stella e, come un eco, mi ripeté: «A chi sputi in faccia?» dandomi uno sguardo penetrante, intinto di minaccia ed apprensione, e facendosi pallido in viso. Questo suo pallore angosciato mi disarmò. Egli recava da sopra, in un mucchio sul braccio, lenzuola, coperte, un guanciale. «Come un servitore», pensai. Notai nel tempo stesso, con una sorpresa amareggiata, che s'era messo degli abiti nuovi, da me non mai veduti prima d'oggi: pantaloni di velluto rigato e una giacca di maglia grigia, e al collo un fazzoletto di seta turchina. Si era sbarbato con cura e perfino pettinato, lisciandosi i capelli all'indietro. Così pulito, elegante, mi appariva bello come un grande principe romanzesco. Pure, mentre lo miravo incantato, mi sorpresi a cercare in lui, assurdamente, con disperazione, quell'aspetto comico grottesco che gli meritava da Stella l'epiteto di parodia. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.